La fine è all'inizio, l'inizio della fine. La fine, la fine, fine. La fine è all'inizio, è l'inizio della fine. La fine è all'inizio, è l'inizio della fine. Passo notti insonni dentro al dramma, dritto sino al giorno dopo. E che rimane di me? Non troppo poco, non troppo poco per restare ancora giù nella catastrofe in strofe, quella che non ti consola. Sto tra le amorfe, visioni distorte. Vedo nel buio ora, sconforto che mi annoda le budella. È come il colpo al cranio con la rivoltella. E quello che pensavi si sparpaglia a terra. Perché così sì, la gente si uccide, anche senza le armi, il bello è che sorride, molto naturalmente, perché il tempo passa e porta tutto appresso e cambiano scenari e volti ed è sempre lo stesso, squallido destino, che trovi senza senso, cantare le dolenti note, quello che ho dentro non è perso, e non è depressione, sono solo gli effetti dell'odio e dell'amore all'esasperazione, purtroppo sempre io il coglione che non crede più niente e nessuno, e vada quella gente a fare in culo che si uccida, adesso che sono già morto e non mi tocca, grida la tua ignoranza e l'ipocrisia infida. Ormai non conto neanche più le cicatrici che mi porto impresse su anima e corpo. Sguardo torvo come quando non ritorno, come quando ogni volta che muoio il giorno dopo son risorto. E canto la catastrofe dentro le strofe in versi. Io macino il disastro in monosillabi compressi e ben marcati, così come li sento atroci e terrificanti a vuoto nello specchio. Parole che non vogliono ascoltare, non è così che si combatte il male, lo devi affrontare. Non è facendo finta che non ci sia che se ne va via. Per prima cosa dovresti riconoscerlo, e oggi è molto facile vederlo, e tutto attorno e ci divora dall'interno. Mette la gente una contro l'altra e poi contro se stessa, e arriva a vendersi le ossa dei suoi cari. Chi si gani, si mangino tra loro, la gente si uccide senza più decoro. Nell'era dei veleni, nel regno degli scemi, canto la catastrofe con i miei versi osceni. E nonostante tutto voodoo, la rabbia muove il mondo come vedi. E canto la catastrofe in strofe, la fine all'inizio e l'inizio della fine. E canto la catastrofe in strofe, la fine all'inizio e l'inizio della fine. E canto la catastrofe in strofe, la fine all'inizio e l'inizio della fine. E canto la catastrofe in strofe, la fine all'inizio e l'inizio della fine.